un benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network. Ho aperto questo spazio con due brani di impronta decisamente ambient. Il primo è di Wata Igarashi e si chiamava Mineral, e il secondo di Sargon Girl, estratto dal suo nuovo Extended Play, l'unico brano ambientale, dico la verità, di questo disco, che si chiama Silken Place. Ma andiamo avanti con un autore italiano. Si tratta di Mai, che ha realizzato un lavoro con la collaborazione di alcuni artisti palestinesi, registrato in West Bank prima della degenerazione successiva al 7 ottobre. Questo lavoro, pubblicato da Maple Death Records, si intitola Caracos, e quella che ascoltiamo è proprio la title track, Mai. You're listening to Oxygen, for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you. brain. This is Oxygen. Questo era Tony Cutrone, ovvero Mai Mai Mai, da questo nuovo lavoro che si intitola Caracos, pubblicato da Maple Death Records. Abbiamo visto questo produttore spesso alle prese con le contaminazioni fra musiche folcloriche, precedentemente attinto dal patrimonio del Sud Italia. Questa volta si è rivolto al mondo palestinese in un momento storico decisamente drammatico per l'oppressione coloniale che questa popolazione soffre ormai da 70 anni. Ma andiamo avanti con un altro artista dedito alle contaminazioni più inaspettate. Si tratta di Sam Shackathlon. Il titolo del lavoro è Euphoria Bound. e questo era Sam Shackathlon dal lavoro Euphoria Bound. Ma andiamo avanti con un altro progetto, si tratta di Space Drum Meditation e il titolo del brano è Banyan. echi tribali in questo lavoro di Space Drum Meditation, un EP che si intitola Swamp Spirit. E Space Drum Meditation è un progetto di stanza a Berlino, come del resto quello che stiamo per ascoltare, che si chiama Priesty Fives. L'ultimo lavoro è un extended play che si chiama Prince of Pangea. Thank you. Questa era Priesty Fives, un progetto di stanza a Berlino, ma andiamo avanti con un artista che abbiamo conosciuto come cantante di hyperpop. In effetti il suo ultimo album, Wouter Higgs, è un lavoro in linea con i precedenti. Abbiamo visto che ha collaborato, anzi il primo album è stato interamente prodotto da A.G. Cook, e il nuovo album vede la presenza di un mostro sacro, di uno dei più importanti artisti degli ultimi 50 anni, ovvero John Cale, il violinista dei Velvet Underground, che è ospite di Charlie XCX sul primo brano, che è quello che stiamo già ascoltando. I just want to explain. Explain the circumstances I find myself in. What and who I really am. I'm a prisoner. Created? For what? If it's beauty, do you see beauty? If there's beauty, say it's enough. You're listening to Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. I'm gonna die in this house. E questo è il brano d'apertura del nuovo lavoro di Charlie XCX con John Cale, il violinista dei Velvet Underground, quindi un nome importantissimo nella storia della musica rock statunitense degli anni 60 e poi negli decenni successivi è stato sempre molto attivo fra un rock urbano e la musica sperimentale. Ma andiamo avanti con Proc Fiscal, il suo nuovo extended play che si chiama Exchequer EP. Questo era Proc Fiscal dal nuovo lavoro che si chiama Exchequer EP. Abbiamo ascoltato la traccia d'apertura, Addictions, ma adesso andiamo avanti con un progetto decisamente più rude, Basic Rhythm, Old School Shit, il titolo dell'extended play. Il brano che ascoltiamo è The Minotaur. Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Yeah. Questo era Basic Rhythm Oxygen dall'EP che si chiama Old School Shit. Ma andiamo avanti con Luca Lozano e Mr. O in un brano che si chiama Tin Can Hustler. vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen, in voce con voi Amptech, questa è Radio Samarcanda Digital Network. Vi ricordo il sito di riferimento della radio www.radiosamarcanda.it. Andiamo avanti con Electro, che proviene direttamente da Detroit. Il progetto infatti è Detroit in Effect, pubblicato dalla Clone Records, la mitica etichetta olandese. Who's in Control è il titolo dell'extended play, che vede anche la presenza di un remix di Alden Tyrell, ma noi ascoltiamo il primo brano, Who's in Control. We'll be right back. questo era Detroit in Effect, un lavoro pubblicato da Clone Records. Ma andiamo avanti con Claudio PRC e Luigi Tozzi, che ci riportano in Europa, a Berlino, e chiaramente i due autori sono italiani. Onirica il titolo della traccia. listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your soul. For your brain. This is Oxygen. Questi erano Luigi Tozzi e Claudio PRC, una traccia che si intitola Onirica, perfettamente in linea con questa atmosfera ambient techno. Ma andiamo avanti con un lavoro 2025 questa volta, perché tutto quello che abbiamo ascoltato finora era targato 2026. Serpentine, il titolo del lavoro. I progetti che contribuiscono a realizzarlo sono due, OK e G e Priori. I brani in realtà sono scritti e registrati da Lauren Squire, Matthew Wilson e Francis Letrell. L'etichetta è la NAF Recordings, direttamente dal Canada. Vi dicevo, il titolo del lavoro è Serpentine. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Thank you. E vi ricordo, siete all'ascolto di Oxygen, questo era Serpentine, un lavoro di Priori con OK e G, però un disco uscito ormai nel 2025, ma andiamo avanti con le novità 2026 con un lavoro targato IVAT, pubblicato dalla Detroit Underground, il titolo è Entropy Sketch. For your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. We'll be right back. questo era IVAT su Detroit Underground Records, ma andiamo avanti con un progetto che ci capita spesso di proporre. Si tratta di PDQB, un lavoro di remix che si intitola Mutations, Modifications and Other Alterations, pubblicato dalla Synaptic Cliffs, e noi ci ascoltiamo il remix che di Ipotermia ha realizzato Silicon Skelly. Bye. questo è il remix che Silicon Skelly ha realizzato per PDQB su questo extended play che si chiama Mutations, Modifications and Other Alterations, che vede una serie di tracce di PDQB remixate da vari artisti. Ma andiamo avanti con un altro disco, si tratta di Salbani. L'extended play da cui è tratto il brano che stiamo per ascoltare si chiama Bola de Cristal, è pubblicato dalla Mord Records. Silicon Skelly che remixa PDQB, ma andiamo avanti con un nome importantissimo della scena di Detroit, è Robert Hood, nuovo singolo rilasciato sulle piattaforme da poche ore, The First Night. We'll be right back.

ricordo, siete all'ascolto di Oxygen, in voce con voi Amptech. Vi ricordo il sito di riferimento di questo team che realizza questa trasmissione, ovvero www.musicamacchina.com, sul quale potete trovare materiali collaterali a ciò che trasmettiamo. E andiamo avanti con un altro nome storico importantissimo, Speedy J, che sta realizzando una serie praticamente innumerevole di extended play con il suo progetto Stour, e il brano che stiamo ascoltando già è Residual. Speedy J. Listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your brain. For your soul. This is Oxygen. Thank you. e questo sotto la mia voce è ancora Speedy J e il suo progetto Stour, terzo EP in poche settimane con questa sigla. Andiamo avanti con Oliver Rosman con Filter, che realizzano un EP dal quale traiamo questa traccia Z3. We'll be right back. Ormai, come avrete capito, siamo in pieno territorio techno. Oliver Rosman, Filter, Z3, il titolo del brano. Andiamo avanti, sempre con musiche dello stesso tenore. Thomas Vandrak, che pubblica su Solid Rush Digital Series questo EP con i relativi remix, che si chiama Lucifer, remix di Mascon. the volume.